La prima cosa che pensai quando vidi Whitwer, che stavo diventando calvo, calvo, grasso e vecchio. Non lo dissi ad alta voce, anzi, mi alzai in piedi, gli andai risolutamente incontro, aggirando la scrivania e tendendogli la destra. Whitwer! Esatto. Ma naturalmente può chiamarmi Ed. Ed. Se, come me, detesta le formalità. Volto dai lineamenti eleganti, molto sicuro di sé. Da quel momento sarebbe stata una faccenda solo tra Ed e John. Un rapporto di franca collaborazione. Ha avuto problemi a trovare l'edificio? Whitwer si muoveva per l'ufficio come se fosse già il suo, come se stesse prendendo le misure. Ma non poteva aspettare un paio di giorni, un intervallo appropriato. Non vengo nella sua agenzia alla cieca, come potrà ben comprendere. Mi sono fatto un'idea di come vanno le cose alla precrimine. Ah sì? Mi accesi la pipa. E come vanno? Mi piacerebbe saperlo. Non troppo male. In effetti, piuttosto bene. Questa è la sua opinione personale o sta solo parlando in codice? Personale e pubblica. Il Senato è contento del suo lavoro. In effetti ne è proprio entusiasta. Entusiasta come possono esserlo dei vecchi senatori. Vecchi, trasalì. Vecchi. Cosa stava veramente passando per quella testa? Gli occhi del giovane erano neri, splendenti e terribilmente svegli. Non era facile fregare Whitwer. E ovviamente era molto ambizioso. Da quel che mi risulta, lei sarà il mio assistente finché non andrò in pensione. Risulta anche a me. Potrebbe essere quest'anno o l'anno prossimo o fra 10 anni. Non sono obbligato ad andare in pensione. Ho fondato la precrimine e per statuto posso restare qui quanto mi pare. Dipende unicamente da me. Naturalmente. Beh, feci uno sforzo, abbassai i toni. No, volevo solo mettere le cose in chiaro. Lei è il capo e ogni sua parola è un ordine. Però mi potrebbe mostrare come funziona l'organizzazione. Vorrei prendere confidenza con l'andazzo generale il prima possibile. Lei conosce la teoria del precrimine, naturalmente. Possiamo darla per scontata? So quello che sanno tutti. Con l'aiuto dei vostri mutanti precog, voi avete coraggiosamente e con successo abolito il sistema punitivo post-crimine, fatto di prigioni, sanzioni pecuniarie. E come è ovvio, la punizione non è mai stata un deterrente. Ed è sempre stata di ben poco giovamento ad una vittima già morta. Lei probabilmente ha afferrato il fondamentale difetto della metodologia precrimine dal punto di vista legale. Noi arrestiamo degli individui che non hanno infranto nessuna legge, ma che sicuramente la violeranno. Per fortuna non lo faranno, perché noi li prendiamo prima che possano commettere un'azione violenta. Per cui, se ci penso, la perpetrazione del crimine stesso è qualcosa di assolutamente metafisico. Noi diciamo che sono colpevoli. Loro, d'altro canto, proclamano in eterno la propria innocenza. In un certo senso sono innocenti. Nella nostra società non abbiamo più reati da pena capitale, ma abbiamo un campo di prigionia pieno di potenziali criminali. Avevamo camminato lungo corridoi e uffici pieni di attività, illuminati da luce gialla. Abbiamo aperto e chiuso porte, una serie di porte. Ci siamo ritrovati nella sezione analitica. Di fronte a noi si innalzavano enormi gruppi di macchinari, macchine che studiavano e rielaboravano il materiale in entrata. E oltre i macchinari sedevano i tre precog, quasi invisibili nel groviglio dei cavi. Eccoli. Allora, che ne pensa? Nella tetra semioscurità i tre idioti sedevano mormorando. Ogni emissione incoerente, ogni sillaba casuale viene analizzata, confrontata, riassemblata sotto forma di simboli visivi. Ah, e poi subito trascritti su schede perforate convenzionali che vengono espulse in varie caselle codificate, giusto? Giusto. Gli idioti mormorano tutto il giorno, imprigionati nelle loro sedie speciali dagli alti schienali, mantenuti in una posizione rigida da bande metalliche e fasce di cavi collegate con elettrodi. Le loro necessità fisiologiche vengono espletate automaticamente e non hanno necessità spirituali. Simili a vegetali, borbottano, sonnecchiano ed esistono. Le loro menti sono offuscate, perse nell'ombra, ma non sono ombre del presente. Quelle tre creature farfuglianti che incespicano nelle parole, con le loro teste abnormi e i corpi devastati, stanno contemplando il futuro. Il macchinario analitico registra mentre i preco... Per la prima volta il volto di Whitwer perse la sua disinvolta sicumera. Non è un bello spettacolo. Non mi ero mai reso conto che fossero così deformi. Deformi, sì, e ritardati. Il talento assorbe tutto. Lo sviluppo abnorme del lobo ESP ha fatto atrofizzare il resto dell'area frontale. Ma cosa ce ne importa? Noi abbiamo le loro profezie. Ci danno ciò di cui abbiamo bisogno. Loro non ci capiscono niente, ma noi sì. Whitwer attraversò la stanza fino a raggiungere il macchinario. Da una casella raccolse un mucchietto di schede. E questi sono i nomi usciti? Ovviamente, ma non ho ancora avuto la possibilità di esaminarli. I Precog devono vedere molto in avanti nel futuro. La loro capacità di previsione è limitata, una o due settimane al massimo. Molti dei loro dati sono privi di valore per noi. Li passiamo ad altre agenzie di competenza. E queste a loro volta scambiano dati con noi. Ogni ufficio importante ha la sua stanza sotterranea. Dove e... vengono conservate le scimmie? Scimmie? Ah, sì, capisco. Non vedo, non parlo, eccetera, eccetera, eccetera. Molto divertente. Molto appropriato. Raccolsi le nuove schede uscite dal macchinario in movimento. Certamente saprà che la precrimine ha permesso di ridurre i crimini del 99,8%. Raramente si verifica un omicidio o un atto proditorio. Dopotutto, il colpevole lo sa che lo metteremo nel campo di prigionia una settimana prima che abbia la possibilità di commettere un reato. E quando è stata l'ultima volta che è stato commesso un vero assassinio? Cinque anni fa. E com'è potuto accadere? Il criminale è sfuggito alle nostre squadre. Sapevamo il suo nome. In effetti conoscevamo tutti i dettagli del crimine, compreso il nome della vittima. Ma nonostante il nostro intervento è riuscito a portarlo a termine. Un solo omicidio in cinque anni. È un risultato veramente straordinario. Qualcosa di cui andare fieri. Io ne sono fiero. 30 anni fa elaborai la teoria, vidi qualcosa di legittimo di fronte a noi, qualcosa che aveva un enorme valore sociale. Page, bellezza, le schede, su! Passai il mazzetto di schede a Page, l'incaricata della sezione scimmie. Page andò via con le carte. Ma è una grossa responsabilità. Sì, è una grossa responsabilità. Se ci facciamo scappare un criminale, come è successo 5 anni fa. Abbiamo una vita umana sulla coscienza. Siamo gli unici responsabili. Se sbagliamo, qualcuno muore. è un servizio pubblico. Ha mai avuto la sensazione di, voglio dire, alcuni di quelli che voi arrestate vi offriranno chissà che cosa? Corruzione. Non servirebbe a niente. Un duplicato delle schede viene spedito al quartier generale dell'esercito. È un metodo basato su un equilibrio tra i due organismi di controllo. Possono controllarci quando e come vogliono. E a quel punto, che diedi una breve occhiata alla prima scheda. Che succede? Niente. Ripiegai con cura la scheda e me la misi in tasca. Che succede? Niente! Niente di importante. Proprio non le piace. Vero, lei non mi piace, ma... Non riuscivo a credere che quell'uomo mi piacesse così poco. Non mi sembrava possibile, ma era possibile. Stordito cercai di mettere a fuoco. Sulla scheda c'era scritto il mio nome. Sulla prima riga, un futuro assassino già accusato di omicidio. Secondo i fori della perforazione, il commissario della precrimine John A. Anderton avrebbe ucciso un uomo entro una settimana. Nell'altro ufficio, Liza, mia moglie, stava parlando con Paige. Era impegnata in un'aspra discussione su qualche questione di procedura. Liza rivolse a malapena uno sguardo a Whitwer. Lui era silenzioso. I suoi occhi balenarono leggermente mentre si posavano su Liza, agente esecutivo della precrimine. Notai un certo interesse sul volto di Whitwer. Qui e mi misi a riflettere. Inserire una scheda nelle macchine avrebbe richiesto un complice all'interno, qualcuno strettamente collegato con la precrimine che avesse accesso all'equipaggiamento analitico. Era improbabile che l'avesse fatto Liza. Improbabile, ma una possibilità c'era. Cominciai a considerare le possibilità che avevo. Aprire le macchine, rimuovere i dati, era un impulso primitivo, inutile. Probabilmente i nastri concordavano con la scheda, mi avrebbero solamente incriminato ancora di più. Avevo circa 24 ore. Poi gli emissari dell'esercito avrebbero visto le schede, visto la discrepanza, avrebbero trovato nei loro dossier un duplicato della scheda di cui mi ero appropriato. Cosa succede, caro? Sembra che tu abbia visto un fantasma. Stai bene? Sì, sto bene. Sembrò che Liza si accorgesse improvvisamente dello sguardo ammirato di Whitwer. Questo signore? Ah, è il tuo nuovo collaboratore, vero? Presentai il mio assistente. Liza sorrise in modo amichevole, ma si era già creata un'intesa tra loro. Oh mio Dio, sto cominciando a sospettare di tutti. Di mia moglie, di Whitwer. Lei è di New York? No. Ho vissuto per lo più a Chicago. Chicago? Attualmente vivo in albergo, uno di quei grandi alberghi che si trovano in centro. Aspetti, ho il nome scritto da qualche parte. Forse potrebbe cenare da noi. Lavoreremo a stretto contatto, penso che dovremmo conoscerci meglio. Indietreggiai. Quante erano le possibilità che l'atteggiamento amichevole di mia moglie fosse accidentale? Whitwer sarebbe stato presente nel corso della serata. Avrebbe avuto una scusa per accompagnarci fino alla nostra residenza privata. Dove vai? Torno alla sezione scimmie. Voglio controllare alcuni nastri poco convincenti prima che li veda l'esercito. Mi diressi rapidamente alla rampa. Stavo scendendo le scale esterne che davano sul marciapiede quando Liza apparve dietro di me. Che diavolo ti succede? Sapevo che stavi per andartene, ma che ti succede? Tutti pensano che tu sia... Voglio dire, agisci in modo così strano. Sto scappando finché ancora sono in tempo. Ma perché? Perché mi stanno incastrando. deliberatamente e perfidamente. Quell'individuo vuole prendere il mio posto. Il Senato si sta vendicando di me attraverso di lui. Dai, mi sembra così un bravo ragazzo. Bravissimo, come un serpente a sonagli. Non ci credo. Caro, con tutti i pensieri che hai in questi ultimi tempi, non è credibile che Ed Whitworth stia cercando di incastrarti. Ma dai, come potrebbe se anche volesse? Sicuramente Ed non farebbe... Ed? Si chiama così, no? Ed. John, diamine, ma sospetti di tutti. Pensi che io c'entri qualcosa con tutto questo, vero? Non ne sono sicuro. Non è vero. Tu ci credi veramente? Sai, forse dovresti proprio andartene per qualche settimana. Ah. Hai decisamente bisogno di riposarti. Tutte queste tensioni, questo trauma, non so, l'arrivo di un giovane. Un giovane? Ti stai comportando da paranoico, ma non te ne accorgi? Tutti che complottano contro di te, ma dimmi, hai delle prove concrete? Tirai fuori dal portafoglio la scheda ripiegata. Esaminala attentamente. La congiura mi sembra piuttosto evidente. Questo darà a Whitworth un pretesto legale per chiedere la mia rimozione immediata. Non dovrà aspettare che io vada in pensione, perché loro sanno che posso durare qualche anno. Questa sarà la fine del sistema di controllo reciproco. La precrimine non sarà più un'agenzia indipendente. Il Senato controllerà la polizia. Prenderanno anche il controllo dell'esercito. Beh, è abbastanza logico. Naturalmente io provo ostilità nei confronti di Whitworth. Naturalmente ho i miei buoni motivi. A nessuno piace essere rimpiazzato da qualcuno di più giovane. È tutto piuttosto plausibile, tanto il fatto che io non ho la minima intenzione di uccidere Whitworth. Solo che non posso provarlo. Io non so, caro, ma se solo... Senti, io vado a casa a prendere le mie cose. È tutto quello che posso fare adesso. Veramente vuoi cercare di nasconderti? Sì! Sì! Fino ai pianeti della colonia di Alfa Centauri, se necessario. È già successo altre volte e io ho un vantaggio di 24 ore. Tu torna dentro. Non ha senso che tu venga con me. Pensavi che sarei venuta? Perché? Non verresti? No. Vedo che non mi credi. Pensi ancora che mi sia inventato tutto. Anche di fronte a questa prova tu non sei ancora convinta. No, infatti. Non hai letto con abbastanza attenzione. Cosa? Il nome Whitworth non c'era. Nessuno dice che ucciderai Ed Whitworth. La scheda deve essere autentica. Lo capisci? E non ha niente a che fare con Ed. Lui non sta complottando contro di te. Né lui, né nessun altro. Ero troppo confuso per replicare. Stetti lì a studiare la scheda. Liza aveva ragione. La scheda non diceva che la vittima sarebbe stata Ed Whitworth. Sulla riga 5, la macchina aveva stampato nitidamente un altro nome, Leopold Kaplan. Non avevo mai sentito quel nome in vita mia. La casa era fredda. È deserta. Cominciai quasi subito a fare i preparativi per il viaggio. Forse mi ero sbagliato sul conto di Whitworth. Ma come potevo esserne certo? Mostrare la scheda a Liza era stato un errore. Senza dubbio l'avrebbe fatta vedere a Whitworth. L'avrebbe descritta in tutti i particolari. Non sarei mai riuscito a lasciare la Terra. Non avrei mai avuto la possibilità di scoprire com'era la vita su un pianeta di frontiera. Sentì uno scricchiolio alle mie spalle. Mi ritrovai la canna grigio-azzurra di una pistola A puntata contro di me. Venni spinto fuori casa verso una limousine. Subito tre uomini armati fino ai denti si sedettero accanto a me. La macchina schizzò sulla superstrada, imboccò una laterale e scese in un garage sotterraneo. Qualcuno urlò un ordine. Sotto la minaccia della pistola, fui fatto salire al piano terra. Alla fine di un corridoio vidi una stanza, uno studio, pieno di libri e mobiliato con gusto. In un cerchio di luce, con il volto parzialmente in ombra, sedeva un uomo in attesa, un uomo che non avevo mai visto prima. Stava facendo le valigie. Commissario Anderton, mi può spiegare cosa le succede? È del tutto impazzito. Come può pensare di uccidere un uomo che non ha mai incontrato? Capì subito che era Leopold Kaplan. Sono Leopold Kaplan, capo di stato maggiore dell'esercito dell'Alleanza Confederata del Blocco Occidentale. In pensione, sin dalla fine della guerra anglo-cinese. Non era una cosa tanto assurda. Sospettavo che l'esercito elaborasse immediatamente i duplicati delle schede per proteggere i suoi membri. Beh, mi avete portato qui. E adesso? Evidentemente non la farò eliminare. Beh, altrimenti una delle vostre schede l'avrebbe riportato, no? Lei mi incuriosisce. Mi sembra incredibile che un uomo nella sua posizione possa contemplare l'assassinio a sangue freddo di un estraneo. Francamente, sono sconcertato. E se fosse un qualche complotto della polizia, una deliberata falsificazione? Ma è proprio così. La predizione sulla scheda è stata deliberatamente contraffatta da una cricca che si trova all'interno dell'agenzia di polizia. Hanno preparato la scheda e mi hanno incastrato. In questo modo vengo privato automaticamente della mia autorità. Il mio assistente, Whitwer, si fa avanti e dice di aver impedito un reato ricorrendo alla consueta efficienza del precrimine. Beh, inutile aggiungere che non c'è nessun assassino in vista, né alcuna intenzione di uccidere. Oh, ma sono d'accordo con lei che non ci sarà nessun assassino. Lei sarà tenuto in custodia dalla polizia. Me ne accerterò personalmente. Ah, mi riportate là. Se mi tengono dentro non sarò mai in grado di dimostrare. Non mi interessa ciò che può o non può dimostrare. Mi interessa solo che lei venga tolto di mezzo per la mia incolumità. Lei si stava preparando a partire. È vero. Non appena mi prenderanno verrò confinato nel campo di prigionia. Whitwer si prenderà tutto il potere, armi e bagagli, e mia moglie. Sono tutti d'accordo, a quanto pare. È possibile. Ma non posso correre questo rischio. Se questo è un complotto contro di lei, mi dispiace. Ma è una cosa che non mi riguarda. Le auguro buona fortuna. Portatelo al palazzo della polizia e consegnatelo alla massima autorità presente. Ah, Whitwer l'ha già preso il comando e naturalmente starà dando il massimo risalto a tutta la faccenda. Ascolti. Ci fu un breve ronzio e poi all'improvviso la voce della radio irruppe nella stanza. Si sconsiglia a chiunque di dare riparo in alcun modo aiutare o assistere questo pericoloso reietto. La straordinaria circostanza di un criminale in fuga a piede libero e in condizione di commettere un atto di violenza è unica nell'epoca moderna. Si ricorda pertanto a tutti i cittadini che gli statuti legali ancora in vigore incriminano chiunque si rifiuti di cooperare senza riserve con la polizia nel compito di arrestare John Ellison Anderton. Su, riportatevelo subito in città. Mi sento a disagio con un uomo così nei paraggi. Su questo concordo con il commissario Whitwer. Voglio che venga neutralizzato il più presto possibile. Una fredda pioggia leggera batteva sul marciapiede mentre l'automobile si muoveva lungo le strade di New York verso il palazzo della polizia. Guardai i pedoni che si affrettavano lungo i marciapiedi battuti dalla pioggia. Non provavo alcuna emozione. Arrivato a quel punto non sapevo più niente. Ero rimasto intrappolato in uno strano circolo temporale senza ragione, senza inizio né fine. Tutte le carte erano contro di me. quando il secco stridio delle ruote mi distolse da quei pensieri. La macchina slittò, sbandò, esitò per un breve istante, poi andò dritta a sbattere contro un furgone. Bagliori accompagnati da un sibilo si facevano strada tra le volute di nebbia fino a penetrare nella massa contorta della macchina. Mani si tesero verso di me, da fuori, dall'esterno. Mi resi conto che mi stavano trascinando attraverso lo squarcio che si era creato al posto dello sportello. In lontananza, in lontananza, in lontananza ululavano le sirene della polizia. Su, su, su, su, se la caverà. Una voce che non avevo mai sentito prima. Estranea e aspra come la pioggia. Capisce quello che sto dicendo? Sì, ma... Stia zitto e mi ascolti. Siamo stati costretti a farlo, era l'unica alternativa. Non avevamo molto tempo, pensavamo che Kaplan la trattenesse più a lungo. Lei chi è? Mi chiamo Fleming. Fleming. Ci rivedremo. Abbiamo pochi minuti prima che arrivi la polizia e allora ci ritroveremo punto e a capo. Qui c'è abbastanza grana per tirare avanti. All'interno c'è una serie completa di documenti d'identità. La contatteremo di tanto in tanto finché non avrà dimostrato che ciò che ha detto è vero. Allora è vero? È tutta una manovra per incastrarmi? Certo. L'intera faccenda è stata preparata con cura. Hanno tenuto tutto sotto controllo. La scheda doveva uscire fuori il giorno in cui è apparso Whitwer. Hanno già portato a termine la prima fase. Whitwer è commissario e lei è un criminale ricercato. Aspetti, aspetti, aspetti. Chi? Voglio sapere chi c'è dietro tutto questo. Sua moglie. No, ma davvero? Può scommetterci la testa. Mia moglie. Arriva la polizia. Entri in questo vicolo, prenda un autobus fino alla periferia, affitti una stanza e si compri un bel po' di riviste per tenersi occupato. Mia moglie. Si procuri vestiti nuovi. Lei è abbastanza sveglio da saper badare a se stesso. Ah, non cerchi di lasciare la terra. Chi è lei? Ci consideri una società di vigilanza. Una specie di forza di polizia che sorveglia la polizia per controllare che tutto vada secondo le regole. Vada via e non perda il pacchetto. Se lo studia attentamente, può ancora salvarsi la pelle. I documenti di identità mi descrivevano come Ernst Temple, elettricista disoccupato, con una moglie e quattro figli a Buffalo e meno di $100 di beni personali. Mentre attraversavo la città nell'autobus semivuoto, studiavo la descrizione di Ernst Temple. Insieme alla carta d'identità c'erano $10,000 in banconote. Me li misi in tasca. Poi cominciai a esaminare il nitido messaggio che le racchiudeva. All'inizio non riuscivo a capirne il senso. Lo studiai a lungo. L'esistenza di una maggioranza implica, logicamente, una minoranza corrispondente. L'esistenza di una maggioranza implica, logicamente, una minoranza corrispondente. L'esistenza di una maggioranza implica, logicamente, una minoranza corrispondente. L'autobus era entrato in una zona periferica. Miglia e miglia di alberghi a poco prezzo e appartamenti semidiroccati che erano sorti dopo la distruzione della guerra. L'autobus rallentò. Io proseguì a piedi. L'impiegato dell'albergo si preoccupò solo di incassare i soldi della stanza. La stanza era piccola ma pulita. Letto, armadio, un calendario, una radio con una fessura per la moneta. Ne inserì una. Tutte le principali stazioni trasmettevano il bollettino della polizia. Dunque, quest'uomo ha sfruttato inizialmente la sua posizione per sfuggire. A causa dell'alta carica che ricopriva, aveva accesso ai dati delle previsioni e la fiducia in lui riposta gli ha permesso di evitare il normale processo di individuazione e detenzione. Quest'uomo, John Ellison Anderton, è stato fondamentale per la nascita del sistema precrimine, la predetenzione profilattica dei criminali attraverso l'uso ingegnoso di precog mutanti, in grado di prevedere gli eventi futuri e di trasferire oralmente i relativi dati a macchine analitiche. Questi tre precog nella loro funzione vitale... Io lasciai la stanza ed entrai nel piccolo bagno. Mi tolsi il cappotto, la camicia. La riempii la vasca di acqua calda. Intanto nell'altra stanza la radio continuava a blaterare. Il sistema dei tre Precog ha la sua genesi nei computer della metà di questo secolo. Come si possono controllare i risultati di un computer elettronico? Fornendo i dati a un secondo computer identico al primo. Ma due computer non sono sufficienti. Se ogni computer arrivasse a una risposta diversa, sarebbe impossibile dire a priori quale sarebbe corretta. La soluzione, basata su un attento studio di un metodo statistico, è di utilizzare un terzo computer per controllare i risultati dei primi due. In questo modo si ottiene un cosiddetto rapporto di maggioranza. Cosiddetto rapporto di maggioranza. Si può presumere con buona approssimazione che la concordanza di due computer su tre indichi quale dei due risultati alternativi sia più accurato. È altamente improbabile che due computer pervengano a due soluzioni identiche ed egualmente sbagliate. Si ottiene molto più frequentemente un rapporto di maggioranza redatto in collaborazione da due Precog, più un rapporto di minoranza con qualche lieve variante elaborato dal terzo mutante. Il commissario facente funzione Whitwer ci spiega. Questo lo si spiega di solito con la teoria dei futuri multipli. Se esistesse un solo sentiero temporale, l'informazione precognitiva non avrebbe alcuna importanza, al momento che non esisterebbe alcuna possibilità, possedendo questa informazione, di alterare il futuro. Nel lavoro della nostra agenzia precrimine dobbiamo prima di tutto presumere. Presumere che io sia un idiota. Il cosiddetto rapporto di maggioranza. Solo due dei Precog avevano fornito il materiale riportato sulla scheda. Questo significava... Questo voleva dire il messaggio incluso nel pacchetto, il rapporto del terzo Precog. Il rapporto di minoranza era in qualche modo molto importante. Perché? Dovevo vedere il rapporto di minoranza. Tra mezzogiorno e l'una, le strade erano colme di gente, scelsi quell'ora. Il momento più frenetico della giornata per fare la mia chiamata. Pronto? Puoi parlare, Paige. Oppure devi stare attenta a quello che dici. Ci fu un attimo di silenzio. Perché? Perché stai chiamando qui? Perché sono diventato un elettricista. Pensavo che forse voi potreste avere un po' di lavoro per me. Se si può fare, vorrei venire lì ad esaminare la vostra dotazione di computer. Soprattutto i dati e le banche analitiche della sezione scimmie. Si può fare, sì. Se è veramente importante. Lo è, Paige. Quando sarebbe meglio per voi? C'è una squadra di riparazioni che deve venire a dare un'occhiata al sistema dei citofoni interni. Tu potresti aggregarti. A che ora più o meno? Diciamo le 4 in punto, entrata B, livello 6. Io ti aspetterò lì. Bene. Spero che tu sia ancora in carica quando arriverò. La sola cosa che Paige disse vedendomi fu... Sei impazzito! Ma perché diavolo sei tornato qui? Non ci starò per molto tempo. Cominciai ad aggirarmi per la sezione scimmie, chiudendo sistematicamente una porta dietro l'altra. Non far entrare nessuno! Non posso correre rischi! Avresti dovuto lasciare quando eri all'apice della carriera. Whitwer ti sta cercando dappertutto. Ti vuole prendere al più presto. Sì, vabbè. Tutto il paese ti sta dando la caccia. Voglio sapere quale delle tre scimmie hai messo il rapporto di minoranza. Non me lo chiedere. Dimmi quale! Io me ne vado. Quello di mezzo. Aveva indicato quello di mezzo. Ah, lo conoscevo bene. La figura nana e gobba era rimasta seduta tra i cavi relè per 15 anni. Con gli occhi fissi nel vuoto, contemplava un mondo che non esisteva ancora, cieco alla realtà fisica che lo circondava. Jerry. Aveva 24 anni. Originariamente era stato classificato come un idiota idrocefalo. Quando aveva raggiunto l'età di 6 anni, i rivelatori psichici avevano identificato il talento Precog sepolto sotto i tessuti del suo cervello malato. Il suo talento latente era stato coltivato in una scuola di addestramento controllata dal governo. All'età di 9 anni il talento aveva raggiunto uno stadio utile. Jerry, a ogni modo, era rimasto immerso nel caos senza senso dell'idiozia. La facoltà divinatoria aveva assorbito tutta la sua personalità. Io cominciai a smontare i pannelli di protezione delle bobine dei nastri, estrassi 2 nastri da mezz'ora, dati recenti, rifiutati, che non erano stati allegati ai rapporti di maggioranza. Mi avvicinai a uno scanner, trattenendo il respiro. Inserì il nastro, ascoltai. Avevo quello che volevo. La visione di Jerry. La visione di Jerry era sfasata rispetto alle altre. Il rapporto di Jerry invalidava il rapporto di maggioranza. Se fossi stato informato che avrei commesso un omicidio, io avrei cambiato idea. La stessa previsione dell'omicidio lo avrebbe cancellato. La profilassi si sarebbe verificata semplicemente informando il futuro omicida, cioè io. Si sarebbe creato un nuovo sentiero temporale. Ma Jerry era stato messo in minoranza. Feci una copia del rapporto e rimisi a posto l'originale. Dovevo mostrarla a Whitwer. Sei pazzo! Mi voltai di scatto. Mia moglie, nella sua bella uniforme da poliziotta, gli occhi pieni di sconcerto. Non ti preoccupare, tesoro. Me ne vado subito. Paige mi ha detto che eri qui, ma non ci volevo credere. Non avrebbe dovuto farti entrare. Lei non capisce quello che sei. Che cosa sono? Prima che tu risponda, forse è meglio che ascolti questo nastro. Non voglio ascoltarlo. Ah, non vuoi ascoltarlo? Voglio solo che te ne vai via di qui. Ed Whitwer sa che c'è qualcuno qua giù. Paige sta cercando di tenerlo occupato, ma è qui, adesso, e cercherà di entrare con la forza. Liza, e tu non hai una qualche influenza su di lui? Cerca di essere gentile, usa il tuo fascino. Dai, probabilmente si dimenticherà di me. C'è un'aeronave parcheggiata sul tetto. Efficiente e veloce. Io partirò fra un minuto. Se vuoi venire... Verrò. Non avevo altra scelta. Al volante del veloce caccia della polizia riferì a Liza il contenuto del nastro del rapporto di minoranza. Lei ascoltò senza commenti, il viso stanco e sciupato. Mi chiedo quante volte è già accaduto prima. Un rapporto di minoranza. Molte altre volte. Voglio dire, un precog fuori fase che utilizza i rapporti degli altri come dati, invalidandoli. No, io ero in grado di vedere la scheda, di dare un'occhiata al rapporto. Ecco perché il precog ne ha tenuto conto. Ora abbiamo un'altra emergenza da risolvere. Discuteremo più tardi degli aspetti teorici. Devo consegnare questo nastro alle persone giuste, prima che il tuo brillante giovane lo distrugga. Lo stai portando da Kaplan? Certo. Sarà interessato alla cosa. La prova che non è in pericolo dovrebbe avere un'importanza vitale per lui. E tu pensi che ti aiuterà? Forse sì o forse no, ma è un rischio che devo correre. Come hai fatto a sparire così rapidamente? Come ho fatto, ho fatto. Probabilmente Kaplan ti proteggerà. È piuttosto potente. E io pensavo che fosse solo un generale in pensione. Tecnicamente è così. Ma Whitwer ha visto il suo dossier. Kaplan è a capo di un'organizzazione molto esclusiva di veterani. Pochi membri selezionati, soltanto alti ufficiali. La loro sede qui a New York è una grande dimora signorile. Hanno 3 riviste patinate e occasionalmente una copertura TV che gli costa una piccola fortuna. Cosa vorresti dire con questo? Solo quello che ho detto. Mi hai convinto della tua innocenza. Voglio dire, è ovvio che tu non commetterai un omicidio. Ma ora ti sarai reso conto che il rapporto originale, quello di maggioranza, non era falso. Nessuno lo ha falsificato. Non l'ha creato Ed Whitwer. E non c'è un complotto contro di te. Non c'è mai stato. Supponiamo di no. Se Kaplan si impadronisce di quel nastro, la polizia verrà screditata. Capisci perché? Il nastro dimostrerebbe che il rapporto di maggioranza era un errore. Ed Whitwer ha ragione al 100%. Tu devi essere messo dentro. Se vogliamo che la precrimine sopravviva. Ora stai pensando solo a salvarti, ma pensa al sistema per un momento. Cosa è più importante per te? La tua salvezza personale o la sopravvivenza del sistema? La mia salvezza. Ah, Liza, Liza. Se il sistema può sopravvivere soltanto imprigionando degli innocenti, allora merita di essere distrutto. La mia salvezza personale è importante perché io sono un essere umano. E inoltre... Credo di avere il dito poggiato sul grilletto. Non ho mai usato un'arma come questa. Ma sono pronta a farlo. Liza, vuoi davvero che io riporti indietro l'aeronave? È questo che vuoi? Sì. Torniamo al palazzo della polizia. Mi dispiace. Se tu potessi anteporre la salvezza del sistema al tuo egoismo. Con la coda dell'occhio vidi un piccolo movimento. Simultaneamente si udì un forte rumore. Un uomo piuttosto grosso che perdeva all'improvviso l'equilibrio e veniva scagliato contro la parete rinforzata dell'aeronave. Gli eventi successivi furono rapidissimi. Fleming si rimise in piedi all'istante, col braccio tentò di colpire la pistola. Liza si voltò, vide l'uomo e gridò: Fleming! Le fece cadere l'arma di mano, mandandola a sbattere sul pavimento. Mi dispiace, pensavo che parlasse di più, ecco perché ho aspettato. Era ovvio, ovvio, era ovvio, era ovvio! Fleming e i suoi uomini mi avevano tenuto sotto sorveglianza. Su, le consiglio di darmi quella bobina, lei ha ragione. Whitwer l'avrebbe fatta sparire e Kaplan sta lavorando a stretto contatto con Whitwer. Lei è stato un vero idiota a scappare con questa donna. Le avevo detto che dietro a tutta questa faccenda c'era lei. Non ci credo, se lei... Lei non ha capito niente. Questa aeronave è stata preparata su ordine di Whitwer. Volevano che lei volasse via dal palazzo in modo che noi la perdessimo di vista. Da solo, senza di noi, non avrebbe avuto scampo. Non è vero, Whitwer non ha mai visto questa aeronave. Dunque, la prima cosa da fare è sbarazzarsi di questa donna. Quanto a lei, Anderton, dovremmo farla sparire dalla circolazione. Fleming afferrò Liza, le fece ruotare con la mano esperta il mento finché la tempia non fu premuta contro il sedile. Liza agitava frenetica le braccia per fermarlo. Fleming strinse le sue grandi mani intorno al collo di Liza e cominciò a stringere, a stringere, a stringere, inesorabile. Niente ferite d'arma da fuoco. Lei cadrà dall'aeronave. Un incidente, accade spesso, ma in questo caso il collo si sarà spezzato prima. Le grosse dita di Fleming erano già penetrate nella gola di Liza quando io alzai il calcio della grossa pistola e lo colpì con forza sulla nuca. Liza rimase per un momento raggomitolata. Poi gradualmente il suo volto riprese colore e mentre lei afferrava il volante arrancai verso il retro dell'aeronave dove giaceva Fleming. Gli aprì il cappotto e frugai nelle tasche. Un momento dopo, avevo in mano il suo portafoglio impregnato di sudore. Todd Fleming, maggiore dell'esercito, distaccato al Dipartimento Interno di Spionaggio del Servizio Segreto Militare. C'era un documento firmato dal generale Leopold Kaplan. Fleming godeva della sua protezione e della protezione speciale del suo gruppo, la Lega Internazionale dei Veterani. Fleming e i suoi uomini stavano operando agli ordini di Kaplan. Solo adesso mi resi conto di che cosa era realmente accaduto. L'incidente, tutto era stato tutto organizzato. Sin dall'inizio tutta la loro strategia era stata elaborata per evitare che Whitwer potesse arrestarmi. Liza, lo sai che stavi dicendo la verità? Possiamo metterci in contatto con Whitwer? Che cosa hai scoperto? Mettimi in contatto con Whitwer! Voglio parlare con lui il prima possibile. È molto urgente! Con un gesto meccanico Liza compose il numero. si sintonizzò sul canale del circuito chiuso e chiamò il quartier generale della polizia a New York. Si ricorda di me? Mio Dio, ma cos'è successo? Liza, lo stai portando qui? Attento a non farle del male. Qualunque cosa lei abbia in mente, Liza non c'è. L'ho già capito da solo. Senta, può procurarci una scorta, ma potremmo aver bisogno di una protezione al ritorno. Ritorno? Sì. Sta tornando qui? Sì. Si vuole costituire? Sì! C'è qualcosa che lei deve fare immediatamente. Chiuda la sezione scimmie. Si assicuri che nessuno possa arrivarci, né Page né gli altri. Soprattutto gente dell'esercito. Kaplan. Sì. Oddio, che cosa mi dice di lui? Era qui e se ne è appena andato. Lei è un idiota. Che cosa è venuto a fare? Stava cercando dei dati, stava trascrivendo duplicati dei rapporti dei nostri precom. Idiota! Su di lei. Oddio. Ha insistito sul fatto che li voleva solo per salvaguardare la sua incolumità. Ma lei è un grande idiota. Allora ci ha già messo sulle mani. Allora è troppo tardi. Ma che cosa vuol dire? Ma che sta succedendo? Glielo dirò quando sarò nel mio ufficio. Quella bestia di Whitwer mi aspettava sul tetto del palazzo della polizia. Adesso ha ottenuto quello che voleva. Può rinchiudermi in cella e mandarmi in campo di prigionia. Ma questo non basterà. Temo di non capire. È colpa mia. Non avrei mai dovuto lasciare l'edificio della polizia. Un attimo, che cosa mi dice di Page? Sistemata. Ah, non ci darà più fastidio. Benissimo. Solo che l'avete imprigionata per il motivo sbagliato. Farmi entrare nella sezione scimmie non è stato un crimine. Il crimine è che Page passava informazioni all'esercito. Lei, Whitwer, aveva una cellula dell'esercito che operava qui. Sì, vabbè, d'accordo, voglio dire, ce l'avevo io. Ho revocato l'ordine di arresto nei suoi confronti. Grazie. Ora le squadre stanno cercando Kaplan. E con quale risultato? Che se n'è andato di qui su un camion dell'esercito. Geniale. L'abbiamo seguito, ma il camion è entrato in una zona di accampamenti militari. Lei è un genio. E farlo spostare significherebbe guerra civile. Bravo. Adesso la smetterà di dire che si è trattata di una mia cospirazione. Sì, ho capito che non è lei. Ah, non pensa più che io stia complottando per prendere il suo posto? Ma certo che lo sta facendo! Siamo tutti colpevoli di questo genere di cose. Io, per esempio, sto complottando per mantenerlo il mio posto. Ma qui c'è sotto qualcos'altro e lei non c'entra. Ma perché dice che è troppo tardi per consegnarsi? Ma Dio mio, la manderemo al campo. La settimana passerà e Kaplan sarà ancora vivo. Sarà ancora vivo, sì. Ma lei potrà dimostrare che sarebbe rimasto vivo ugualmente anche se io fossi stato a piede libero? Le informazioni che ha Kaplan, le informazioni che ha in mano dimostrano che il rapporto di maggioranza è obsoleto. Può distruggere il sistema precrimine. Comunque vada, è lui che vince e noi perdiamo. L'esercito può screditarci. Il loro piano ha pagato. Ma perché stanno rischiando così tanto? Ma che cosa vogliono esattamente? Dopo la guerra anglocinese l'esercito ha perso terreno. All'epoca contavano sia dal punto di vista militare che in politica interna. Dopo la guerra gli ufficiali come Kaplan sono stati rimossi dal loro incarico. A nessuno piace essere messo da parte. E in fondo io lo capisco. Non è l'unico ad aver reagito in quel modo. Comunque loro non potevano continuare così. Dovevano arrivare a una netta separazione dei poteri. Lei dice che Kaplan ha vinto. E non c'è niente che noi possiamo fare. Non lo ucciderò, questo lo sappiamo noi e lo sa lui. Probabilmente si farà vivo e ci offrirà un qualche tipo di accordo. Noi potremo continuare ad operare, ma sarà il Senato a prendere le decisioni. Lei questo non lo vuole, vero? Direi di no. E poi uno di questi giorni sarò capo dell'agenzia. Non nell'immediato, naturalmente. Ah, che peccato che qualche idiota abbia reso pubblico il rapporto di maggioranza. Se lo avesse tenuto segreto l'avremmo potuto ritirare senza fare rumore. Ma ormai tutti ne hanno sentito parlare, non possiamo sconfessarlo adesso. Temo di no. Forse io non sono così adatto per questo lavoro come avevo immaginato. Ma no, non dica così. Col tempo lo diventerà. Lei diventerà un ottimo ufficiale di polizia. Crede nello status quo, ma deve imparare una cosa: a non prenderla troppo sul personale. Io vado a studiare i nastri del rapporto di maggioranza. Voglio scoprire esattamente come avrei dovuto uccidere Kaplan. Potrebbe darmi qualche buona idea. I nastri dei Precog, Don e Mike erano stati archiviati separatamente. Scelsi il macchinario che si occupava dell'analisi di Donna e ne esaminai il contenuto. Era più o meno come sospettavo, si trattava del materiale utilizzato da Jerry. In questo sentiero temporale superato, io, dopo essere stato minacciato da Capla, nella mia qualità di commissario di polizia, mi sarei rivolto al Senato in cerca di aiuto, senza ottenere nulla. Per evitare una guerra civile, il Senato avrebbe ratificato lo smembramento del sistema di polizia e decretato il ritorno alla legge marziale per affrontare l'emergenza. Io avrei rintracciato Kaplan e avrei sparato contro di lui e contro gli altri ufficiali della Lega dei Veterani. Questa era la versione di Donna. Riavvolsi il nastro ed esaminai il materiale previsto da Mike. Doveva essere identico. Entrambi i Precog si erano messi d'accordo per fornire un quadro coerente. Mike cominciava infatti dallo stesso punto di Donna. Mi sarei accorto del complotto di Kaplan contro la... Ehi, ma c'era qualcosa di sbagliato. Riavvolsi il nastro fin dall'inizio. Non corrispondeva. Il rapporto di Mike era sostanzialmente diverso da quello di Donna. Un'ora dopo, finito il mio esame, misi a posto i nastri e lasciai la sezione scimmie per raggiungere Whitwer. Anderton? Eh? E allora? E allora? C'è qualcosa che non torna? Anzi, non è del tutto sbagliato. Un suono mi distrasse. Andai alla finestra e guardai fuori. La strada era piena di gente, nella corsia centrale sfilavano truppe in uniforme su quattro colonne, fucili, elmetti, soldati in marcia, nelle loro stinte uniformi di guerra. Un raduno delle forze armate. Mi ero sbagliato. Non faranno un accordo con noi. Perché dovrebbero? Kaplan sta per rendere pubblica la cosa. Renderà pubblico il rapporto di minoranza. Così pare. Chiederanno al Senato che si proceda per lo smantellamento della polizia e poi ci toglieranno l'autorità, diranno che abbiamo arrestato persone innocenti, retate notturne, insomma quel genere di cose. Governo del terrore. Whitwer, lei pensa che il Senato cederà? Preferisco non pronunciarmi. E allora lo dico io, è quello che faranno. Ciò che sta succedendo corrisponde a quanto appreso ascoltando i nastri. Ci siamo incastrati da soli. E possiamo andare in un'unica direzione, che ci piaccia o meno, dovremo prenderla. E cioè? È del tutto evidente che io dovrò compiere ciò che è scritto nel rapporto che lei ha reso noto. Dovrò uccidere Capla. È l'unico modo che abbiamo per impedire loro di screditarci. Ma il rapporto di minoranza è stato invalidato. Io posso farlo, ma avrà un prezzo. Conosce le leggi che riguardano l'omicidio di primo grado? Ergastolo. Come minimo. Ma probabilmente lei potrà fare in modo che la pena venga commutata in esilio. Potrei essere mandato su uno di quei pianeti della colonia, la buona vecchia frontiera. Cioè, lei preferirebbe... No, non lo preferirei affatto. Ma sarebbe il male minore. E non c'è davvero altro da fare. Io non vedo come possa uccidere Kaplan. Userò questa. Ed estrassi l'arma di grosso calibro che Fleming mi aveva puntato contro. E loro non la fermeranno. Perché dovrebbero? Il rapporto di minoranza dice che io ho cambiato idea. Allora hai sbagliato il rapporto di minoranza? No, è assolutamente esatto. Ma io ucciderò Kaplan comunque. Non avevo mai ucciso un uomo. Non avevo mai neanche visto un uomo ucciso. Per la mia generazione l'omicidio premeditato semplicemente non accadeva. Una macchina della polizia mi trasportò a un isolato di distanza dal raduno militare. Masse di persone cercavano di arrivare a sentire cosa si diceva al raduno. Si vedevano uniformi dell'esercito e sul perimetro dell'area sgombra di gente era in mostra una fila di carri armati, di armi pesanti. Sul palco presenziavano gli inflessibili dignitari della Lega dei Veterani, tutti in tensione per l'attesa. Kaplan era fra di loro, ma in quel momento era il generale Kaplan, il generale Kaplan. Impressionante. Come quell'uomo si fosse trasformato grazie alla potenza di un berretto da ufficiale con visiera. Mi notò, si staccò dal gruppo e si diresse verso di me. Questa sì che è una sorpresa, Anderton. Pensavo che fosse stato catturato dal commissario facente funzione. No, sono ancora a piede libero. Questa è una grande occasione per l'esercito. Lo so. Sarà felice di sapere che fornirò al pubblico un resoconto dettagliato della falsa accusa mossa contro di lei. Molto bene. Risulterà chiaro che lei è stato accusato ingiustamente. Benissimo. Fleming ha avuto l'opportunità di spiegarle la situazione. Fleming, sì, in una qualche misura. Leggerà solo il rapporto di minoranza e tutto quello che ha? Farò un confronto con il rapporto di maggioranza. È tutto qui, vede? Tutte le prove di cui abbiamo bisogno. Ma a lei non importa di diventare un caso esemplare, no, vero? No. Il suo caso testimonia dell'arresto ingiusto di innumerevoli individui. Ora devo cominciare. Verrà con me sul palco? È necessario? Così potranno vedere la prova vivente. Ah. Io e lei insieme, il carnefice e la sua vittima fianco a fianco, che rivelano la sinistra frode messa in atto dalla polizia. Se è così, ne sarò felice. Cosa stiamo aspettando? Anderton, lei comprende appieno ciò che sto per dire. La rivelazione avrà notevoli ripercussioni. Potrebbe indurre il Senato a riconsiderare la validità dell'intero sistema precrimine. Comprendo appieno. Procediamo. Il silenzio era sceso sulla folla. Ma ci fu un tremito quando Kaplan prese la sua valigetta e cominciò a riordinare i documenti di fronte a sé. L'uomo che vedete qui, lo conoscete tutti. E sarete sorpresi di vederlo, poiché fino a poco tempo fa veniva descritto dalla polizia come un pericoloso omicida. Ad ogni modo, nelle ultime ore, il mandato di arresto è stato revocato. Ma perché? Forse perché l'ex commissario Anderton si è consegnato spontaneamente? No, non è esatto. Lui è qui. Non si è costituito. Ma la polizia non è più interessata a lui. John Ellison Anderton è innocente di ogni crimine del passato, del presente e del futuro. Le accuse mosse contro di lui erano distorsioni diaboliche di un sistema penale corrotto basato su una falsa premessa. Come saprete, molti uomini sono stati catturati e imprigionati dalla cosiddetta struttura di profilassi precrimine. Uomini accusati non di crimini che hanno commesso, ma di crimini che commetteranno. Si afferma che questi uomini, se lasciati liberi, commetteranno dei reati in futuro. Ma non può esserci alcuna valida conoscenza del futuro. Non appena si ottiene un'informazione precognitiva, questa si cancella da sé. L'affermazione che quest'uomo commetterà un omicidio è paradossale. Il solo fatto di possedere in anticipo questo dato la rende spuria. Kaplan stava riassumendo il rapporto di minoranza, spiegando di cosa si trattava e come era stato realizzato. Tirai fuori la mia arma dalla tasca del cappotto e la coccolai in grembo. Invece questo è il rapporto di maggioranza originale, l'affermazione fatta dai primi due precog che Anderton avrebbe commesso un omicidio. Ora si tratta di un rapporto che viene automaticamente invalidato e adesso ve lo leggerò. Tirò fuori gli occhiali, li agitò sul naso, cominciò lentamente a leggere. Io sollevai la pistola. Mi fece avanti rapidamente e sparai. Kaplan emise un unico grido stridulo. Era tutto finito. Kaplan, come affermava il rapporto di maggioranza, era morto. Mi feci rapidamente strada fra le figure degli ufficiali. Saltai dalla piattaforma e mi confusi nella massa caotica. L'incidente accaduto di fronte ai loro occhi era incomprensibile. Ai margini della folla fui catturato dalla polizia che mi stava aspettando. Mi sistemai sulla macchina e tentai di ricompormi. Tremavo e mi sentivo stordito. All'improvviso mi sporsi in avanti ed ebbi un violento conato di vomito. Quattro poliziotti aiutarono me e Liza a riempire le valigie. In 50 anni avevo accumulato una vasta collezione di beni. Saremmo andati con un camion direttamente al campo di lancio e da lì a Decima Centauri tramite il trasporto intersistema. Ecco la penultima cassa. Suppongo che non saremo in grado di utilizzare i nostri elettrodomestici. Su Decima Centauri usano ancora l'elettricità. Spero che non ti dispiaccia più di tanto. Ci abitueremo, giusto? Io lo spero. Sei sicura che non avrai rimpianti? Se solo pensassi... Nessun rimpianto. Adesso perché non mi aiuti a trasportare questa cassa? Mentre salivamo a bordo del camion di testa, arriva Whitwer con una macchina di pattuglia. Anderton, prima che prendiate il volo, lei mi dovrà riferire tutto sui Precog. Io sto ricevendo richieste di chiarimenti dal Senato, vogliono sapere se il secondo rapporto, insomma quello della ritrattazione, è stato un errore o cosa. Insomma, io non riesco del tutto a spiegarmelo. Il rapporto di minoranza era sbagliato. Quale? Vero? Quale rapporto di minoranza? Allora è vero! Io avrei dovuto capirlo subito! Ero divertito dalla confusione di Whitwer. Un giorno avrebbe imparato a non ficcarsi in situazioni che non comprendeva appieno. Vecchio ed esausto, io ero stato l'unico a comprendere la vera natura del problema. C'erano tre rapporti di minoranza, Whitwer. I tre rapporti erano consecutivi. Il primo era donna. In quel sentiero temporale Kaplan mi riferiva il complotto e io lo uccidevo subito. Jerry, di poco successivo a donna, utilizzava il suo rapporto come dato di partenza. Ha valutato il fatto che io fossi a conoscenza del rapporto. In questo sentiero temporale io volevo soltanto conservare il mio posto e salvare la pelle. Non volevo uccidere Kaplan. E mai che è stato il terzo rapporto, che è venuto dopo il rapporto di minoranza, cioè, voglio dire, che è venuto per ultimo. Mike è stato l'ultimo dei tre, certo. Avendo saputo dell'esistenza del primo rapporto, avevo deciso di non uccidere Kaplan. Ciò ha prodotto il secondo rapporto, quello di Jerry. Ma di fronte al secondo rapporto ho cambiato nuovamente idea. Il rapporto 2, la situazione 2, era quella che Kaplan voleva creare. Era vantaggioso per lui, ma non per la polizia. Avrei capito ciò che Kaplan stava facendo. Il terzo rapporto invalidava il secondo proprio come il secondo invalidava il primo. Questo ci ha riportato alla situazione di partenza. Ogni rapporto era diverso dall'altro, ogni rapporto era unico, ma due concordavano su un punto. Lasciato libero, avrei ucciso Kaplan. Ciò ha creato l'illusione di un rapporto di maggioranza, e in realtà era solo un'illusione. Don e Mike avevano previsto lo stesso evento, ma in due sentieri temporali completamente diversi, che si verificavano in situazioni non comparabili. Don e Jerry, il cosiddetto rapporto di minoranza e metà del rapporto di maggioranza, erano sbagliati. Dei tre, Mike era esatto, dal momento che non è stato invalidato da nessun altro rapporto successivo. Solo questo spiega tutto. Succederà ancora. E dovremmo forse riprogrammare tutto il sistema. Io provai un certo piacere nel vedere l'espressione di Whitwer. Liza accanto a me increspò leggermente le labbra rosse e mi strinse con forza la mano. Può accadere solo in una circostanza. Il mio caso era unico, dal momento che io avevo accesso ai dati. Potrebbe succedere di nuovo, ma solo al prossimo commissario della polizia. Per cui stia attento, Whitwer. Meglio tenere gli occhi aperti.